9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 16 di luglio e oggi ci occupiamo di energia, perché ieri c'è stato, questa è l'occasione da cui traiamo spunto, la relazione annuale dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e contemporaneamente, io lo dichiaro subito, come sempre dichiaro il mio punto di vista in maniera da consentirvi magari a casa anche di diffidarne, o se siete in automobile ovviamente come molti dei nostri ascoltatori, il mio punto di vista è che nel panorama delle autorità di mercato e regolatore di settore italiano in questi anni, sapete, noi siamo arrivati un pochino late comer, si dice in termini tecnici, siamo arrivati un po' buoni ultimi dall'adozione della legge e dell'autorità antitrust, poi ad adottare negli anni 90 le diverse autorità di settore, tra cui quindi quella anche che disciplina l'energia elettrica e il gas, ma in questo panorama comparato, se andiamo a vedere come si sono comportate le diverse autorità indipendenti nel nostro paese, la mia opinione personalissima, ma me ne assumo la responsabilità, è quella in questi anni, 7 anni, perché sono 7 anni che il presidente che ieri ha consegnato la sua relazione annuale ha ricoperto questo incarico, tanto è vero che è l'ultima relazione annuale che ha compiuto ieri, perché il suo incarico scade improrogabilmente a dicembre. Ecco, in questi anni e in termini comparati rispetto alle altre autorità, il presidente Alessandro Ortis ha conquistato sul campo un merito, e lo dico da appassionato della concorrenza. Il merito è quello di essersi battuto rispetto alle altre autorità di settore con una capacità di sottolineare con energia, con provvedimenti efficaci e i meno impugnati anche rispetto a tutti quelli assunti dalle altre autorità, perché la concorrenza si traducesse in risultati concreti, che nella mia impostazione devono essere risultati concreti innanzitutto per i consumatori, prima che regole per abbassare, per così dire, i margini di mercato dei diversi operatori. Conta anche quell'impostazione, ma quello che conta soprattutto è che la miglior concorrenza è quella che produce migliori e tangibili risultati per clienti e consumatori. E nel fare questo mestiere, il presidente Alessandro Ortis e l'altro componente dell'autorità che a lungo la politica non a caso non ha integrato in questo collegio, cioè Tullio Fanelli, hanno inevitabilmente, vista l'articolazione del mercato dell'energia nel nostro paese fatto da grandi aziende ex pubbliche che erano gli ex monopolisti, l'Enel nell'elettricità, ma soprattutto poi l'Eni nella parte che riguarda il gas, hanno saputo anche con energia, ma secondo me anche con equilibrio oltre che con rigore, richiamare energicamente la politica a una impostazione più coraggiosa nei confronti dell'impostazione del mercato. E dico questo perché così facciamo piazza pulita fin dall'inizio dei complimenti. Ritengo che un presidente come Alessandro Ortis, che dopo avervi presentato così naturalmente ci guiderà nella lettura dei determinanti del mercato energia italiana, è uno dei pochi che veramente possa a buon titolo permettersi, come ha fatto ieri, di concludere la sua relazione con questa frase: essere stato chiamato a tutelare i consumatori, a promuovere una sana competizione per maggior competitività di sistema, a servire il mio paese per regolare e controllare nell'accezione einaudiana dell'economia liberale, è stato ed è per me una piacevole sintonia culturale e professionale, una bellissima esperienza umana e un grande onore. Ecco, mi perdoni Presidente Ortis, io la saluto, buongiorno e la ringrazio. Buongiorno, mi perdoni perché naturalmente conosco la sua retrosia e dirà che questa era la peggiore dell'incipit che potevo riservarla, però ci tenevo a dire che questo è il mio punto di vista. Allora, la relazione del Presidente Ortis ha naturalmente fatto la fotografia annuale degli andamenti delle diverse componenti maggiori del mercato dell'energia italiano. Si tratta di questioni, lo sapete voi in ascolto, un pochino tecniche, ma con il suo aiuto e con l'aiuto degli altri ospiti, tra cui Carlo Stagnaro, che è il direttore di ricerca e studi dell'IBL. Buongiorno Stagnaro. Buongiorno. Tenteremo di iniziare con le cose che forse a casa vi appaiono più interessanti, perché poi in realtà lo sono. E quindi io chiederei al Presidente innanzitutto di cominciare nella descrizione dei due mercati all'ingrosso. È chiaro che il mercato all'ingrosso dell'elettricità e quello del gas hanno delle determinanti nei loro assetti organizzativi che poi sotto, man mano che si scende alla catena e si arriva poi alla distribuzione, al consumo, ai clienti finali da parte delle famiglie e delle imprese, sono le determinanti dei mercati sopra, quelli che poi determinano anche gli andamenti della maggiore o minor concorrenza e quindi anche la possibilità per gli effetti della concorrenza e per gli effetti delle tariffe regolate di potervi anche avvantaggiare a voi clienti a casa con tariffe più basse, ma contemporaneamente, perché questo deve essere l'obiettivo, capaci di remunerare gli investimenti, perché noi abbiamo bisogno di molti investimenti per il miglioramento delle infrastrutture. Allora, in realtà storicamente da che cosa dipende il fatto che nel mercato all'ingrosso quello dell'energia elettrica è in realtà oggi caratterizzato da miglior concorrenza e questo ha consentito anche una diminuzione della tariffa, ci dica di quanto, senza per questo comprimere gli investimenti, anzi raddoppiandoli, rispetto invece a una caratteristica molto diversa e un po' insoddisfacente, che ancora quest'anno è stato il suo vero punto su cui ha puntato di più, insieme a tanti altri che vedremo, cioè quello del gas. Da cosa dipende questa dissimmetria, Presidente? Ma direi, volendo tornare alla citazione einaudiana che lei ha fatto, proprio dalla situazione dell'offerta sul mercato all'ingrosso gioca molto la disponibilità abbondante di offerta e soprattutto la presenza abbondante di un numero elevato di concorrenti, sufficientemente elevato di concorrenti, in forte concorrenza fra loro. Per il mercato elettrico esiste una borsa dove si confrontano varie offerte e c'è un dispacciatore di queste offerte neutrale come Terna, dunque disponiamo per il mercato all'ingrosso di fatto di una piattaforma di scambi che ormai è uno stadio abbastanza avanzato. Certo, dobbiamo introdurre ulteriori affinamenti, abbiamo ultimamente introdotto per esempio dei prodotti a lungo termine molto interessanti per chi avesse in futuro impegni di centrali con molti capitali coinvolti e lunghi ritorni. Morale, noi disponiamo di una borsa, di una piattaforma dove in modo trasparente si trattano i contratti di più offerenti e di più compratori. E la simmetria è evidente se noi guardiamo al gas, dove non c'è ancora una borsa e non c'è questa situazione relativa all'offerta. Quindi siamo in una posizione più ingessata. Abbiamo poi anche dei ritardi nello sviluppo delle infrastrutture che certo non facilitano il raggiungimento di efficienze adeguate nel mercato all'ingrosso. Dunque ci sono queste asimmetrie. E allora cosa fare? Bene, dal lato elettrico affinare e dal lato del gas scavare a fondo per davvero realizzare un mercato che sia tale, perché in questo momento non possiamo proprio dire che siamo soddisfatti per quanto riguarda il gas. Tant'è vero, e qui mi aggancio a una riflessione che lei faceva poco fa, tant'è vero che nel settore elettrico già il risultato di liberalizzazione e regolazione messa insieme hanno portato ad ottenere un abbattimento dei costi generali di sistema di 4,5 miliardi di euro all'anno, calcolati quest'anno, e questo abbattimento di costi è dovuto per un 40% a tariffe che sono scese e per il 60% alla pressione competitiva che si è creata sul mercato all'ingrosso. E dunque sarebbe molto bello poter, fra qualche tempo almeno, poter dire cose analoghe per quanto riguarda il gas. E siccome lei faceva conto sulla sensibilità dei consumatori e in definitiva sul modo di riuscire a soddisfare prezzi e qualità e quindi convenienza per loro, basta guardare a come è andata fino ad ora l'apprezzamento dei consumatori sui due mercati in modo diverso. E nel settore elettrico in 3 anni abbiamo visto che l'11% delle famiglie, 3.200.000 famiglie hanno cambiato fornitore, cioè hanno cominciato a esercitare il loro vero potere, il potere di poter decidere di cambiare, che è fondamentale per la concorrenza, e 34% anche delle aziende che pure sono dei clienti importanti. Beh, nel gas siamo ancora fermi a un modesto 7%, ma dopo più di sette anni di apertura del mercato. Dunque, asimmetrie e necessità di ritarare queste asimmetrie perché ci sia un vantaggio complessivo. Consideri poi che il mercato all'ingrosso del gas è di grande rilievo perché anche molta dell'energia elettrica viene prodotta utilizzando il gas. Domanda, Presidente, prima domanda un po' scomoda. Lei perché dico scomoda? È scomoda anche dal mio punto di vista fargliela, perché questa è la radio di Confindustria, lei ne sta in Confindustria, non è esattamente uno dei più modesti contributori, è una grande azienda italiana, internazionalizzata, insomma, noi stiamo parlando, quando diciamo più concorrenza nel gas e diciamo più concorrenza nella distribuzione, parliamo di Snam Rete Gas, lei ha avanzato anche quest'anno, ha ricordato che è dal 2003 che è pendente un adempimento per la politica, cioè quella della separazione delle reti, come si fece in elettricità tra Enel e Terna, però passano gli anni, questo punto non viene soddisfatto. Allora, io nell'assumermi la mia quota di rischio, perché a lei certo non piace, che ed è giusto, ognuno fa il suo mestiere, però io faccio il mio, che è di giornalista per la concorrenza, e glielo chiedo. Lei nella relazione anche quest'anno ricorda perché non facciamo qualcosa di simile, cioè la separazione, e come per l'elettricità, e propone che per esempio il controllo, le quote di controllo di Snam eccetera passino alla Cassa Depositi e Prestiti. La mia domanda un po' scomoda è: ma questo avrebbe più effetti rispetto a ciò di cui stiamo parlando, cioè più concorrenza, pluralità di offerta e quindi effetti anche poi nel breve medio periodo sulle tariffe e sulle capacità di scelta del mercato? Avrebbe più effetto una misura come questa, passarlo alla Cassa Depositi e Prestiti, che è diventata insomma una specie di portafoglio pubblico a tutti gli effetti, non troppo distinto dal Tesoro, almeno fino a questo momento? Oppure bisognerebbe mettersi in capo con delicatezza, perché stiamo parlando di diritti patrimoniali messi a bilancio dell'ENI e così via, di modificare per esempio la disciplina dei contratti di medio-lungo periodo di importazione del gas, che vengono chiusi con prezzi molti anni prima e che poi mi pare esercitano un'influenza pesante sulle tariffe del gas e sul mercato del gas negli anni a venire, i famosi take or pay eccetera eccetera. Cioè, non sono queste determinanti di prezzo più che gli assetti proprietari della distribuzione del gas ad avere conseguenze negative, quelle di cui stiamo parlando? Ma io direi che la prima considerazione da fare è fare la fotografia del sistema. Noi dobbiamo sapere che la rete di trasporto, per esempio, sia elettrica che il gas, sono infrastrutture monopolistiche, cioè non c'è possibilità per nessun concorrente di comprare e poi servire e vendere sul mercato fino alle nostre case senza necessariamente passare da quei fili o da quei tubi. Quindi è un obbligo questo transito, questo passaggio, questo uso, e per farne uso io devo dire tutto, devo dare tutti i dati e tutte le mie previsioni delle mie attività commerciali. Dunque, come si può pensare allora che una infrastruttura su cui tutti gli operatori sono obbligati a correre debba e possa essere in mano a uno solo di loro, a uno, per giunta in questo caso il dominante? Sono due affari, come si suol dire, completamente diversi. Perciò chi gestisce la rete vede e deve vedere tutti gli utenti, cioè tutti i concorrenti fra loro concorrenti, come clienti da servire al meglio e nel migliore dei modi. Io però concorrente, certamente invece dedicato agli affari della vendita, cioè devo vedere gli altri come, tra virgolette, nemici, cioè contendenti da battere. Quindi sono due mondi completamente diversi. Allora, il primo deve essere garantito con codici di gestione, con tariffe fissate dall'autorità, eque, uguali, senza discriminazioni. Quando dico senza discriminazioni, dico senza nemmeno il dubbio di discriminazioni. E l'altro invece è un mondo dove tutti si misurano in concorrenza. Questo è successo nel sistema elettrico. E nel sistema elettrico il campione nazionale Enel certamente di questa partita non ha sofferto, perché quando io parlo di separazione, parlo di passaggio di proprietà, non parlo di espropri, parlo di vendita, di compenso per questo passaggio. E insomma, noi dobbiamo evitare l'arbitraggio sostanzialmente fra chi ottiene dalle tariffe motivo per gestire e sviluppare la rete, da chi invece, dall'eventualità che la rete consenta, faciliti l'ingresso di nuovi concorrenti, si veda minacciato. Io non contesto che ci siano interessi di difesa degli interessi dei propri azionisti nel mondo della produzione, nel mondo della vendita, ma nel mondo dell'infrastruttura a monopolio naturale ci deve essere una disponibilità equa. In più sono infrastrutture strategiche e siccome noi dobbiamo anche pensare a una visione strategica di sistema europeo, e se noi dobbiamo pensare all'Europa e perché no all'ambizione di avere una rete europea ben coordinata, è evidente che devo mettere pere con pere o mele con mele, devo immaginare che sia una rete di reti, una somma di reti neutra per tutti, altrimenti poi addirittura avremmo la complicazione dei nazionalismi, dei protezionismi e compagnia cantante. Quindi credo che questa operazione farebbe bene al mercato, farebbe bene ai consumatori perché migliorerebbe la pressione concorrenziale nel mercato e per il mercato, e in definitiva farebbe bene a Snam, che in questo momento non ha nemmeno un metro lineare di tubo al di fuori dei propri confini, e invece resa terza, nessuno potrebbe a mio avviso obiettare se comprasse, se si desse da fare a fare trasporto anche al di là delle Alpi, come fa Terna. Non c'è dubbio, noi abbiamo visto un salto consistente degli investimenti dopo la separazione, perché nemmeno si può pretendere, no, che il tacchino faccia festa all'approssimarsi di Natale. Una domanda per Stagnaro. Certo, nel vedere le cifre fatte ieri nella relazione di Ortis su quanto ci costa questo aggravio, perché Ortis dice guardate che i prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica non si devono solo alla differenza del mix, che noi non abbiamo il nucleare, i francesi ci hanno il nucleare, perché se da noi l'energia elettrica costa intorno ai 70 euro per megawattora ed è più elevata della media europea, ad esempio il paragone con la Francia è di 16-18 euro per megawattore in più, però questa differenza, ci dice Ortis, potrebbe praticamente annullarsi se i prezzi del gas fossero frutto di un contesto competitivo, e perché questo spiega un 10% però di aggravio del gas, però quello che conta anche è tutta la batteria di provvedimenti che pesano in tariffa per la parte, diciamo così, ambientale, da una parte certificati verdi e dall'altro, altro capitolo, gli incentivi alle rinnovabili, perché il rischio è addirittura di aumentare del 20% le bollette di qui al 2020, perché poi a casa arrivano già i primi messaggi che dicono ma voi dite che la bolletta elettrica scende. Attenzione che noi stiamo parlando di una componente, poi la componente complessiva è fatta di tutto ciò che in bolletta remunera anche le energie alternative. Allora, tutto questo, oltre alla concorrenza nel gas, tutta la parte che in bolletta serve, Stagnaro, a promuovere la parte degli incentivi ambientali, alla rinnovabile, eccetera, eccetera, non è un po' paradossale l'effetto di una insistenza un po' troppo che confonde interessi spacciandoli però per la nuova curva di una economia capace di consumare meno energia, intensità di prodotto, quando invece poi forse gli effetti che ha è quello di far costare il tutto di più accontentando un pochino di cose un po' meno degne di questo ambientalismo? Lei che pensa, Stagnaro? A me pare che ci siano almeno due componenti distinte. C'è una componente, chiamiamola in senso stretto lobbistica, che deriva dal fatto che soprattutto per alcune fonti rinnovabili il nostro paese concede incentivi oggettivamente troppo generosi e sicuramente più generosi di quanto facciano altri paesi europei che non hanno certamente investimenti inferiori. Per esempio quale componente? in particolare per il solare fotovoltaico, che è stato citato esplicitamente ieri dal Presidente Ortis nella sua relazione. C'è però anche un'altra componente, per così dire, di sistema che spiega questo disallineamento tra gli incentivi che paghiamo e quelli che vengono erogati altrove, e cioè dipende dal fatto che in Italia ottenere autorizzazioni è più costoso, richiede più tempo e ha più incertezze che altrove, in altre parole contiene dei rischi più alti, e rischi più alti ovunque nel mondo devono corrispondere, posto l'obiettivo che abbiamo e a cui non possiamo sottrarci perché ci viene dall'Europa di installare fonti rinnovabili, rischi più alti corrispondono a rendimenti più alti. In questa prospettiva io credo che sia molto giusto quello che ieri diceva il Presidente quando suggeriva di sostituire l'attuale sistema di incentivi, che è confuso, con sovrapposizioni, opacità e quant'altro, con un sistema molto più semplice, molto più organico, che veda dal lato politico la decisione su quali obiettivi devono essere raggiunti in termini di penetrazione delle rinnovabili, ma poi muovere in mano all'autorità, cioè un organismo tecnico e più terzo rispetto a quanto non sia la politica di fronte agli interessi coinvolti, consentire all'autorità di decidere come raggiungere quell'obiettivo, facendolo in modo naturalmente più organico e più lineare. In questo modo si potrebbero assegnare incentivi che meglio riflettono i tipi di rendimenti che è giusto offrire alle imprese che fanno rinnovabili, e che meglio riflettono anche un approccio orientato all'efficienza, che oggi chiaramente nel nostro paese manca, con i risultati che lei ha appena ricordato. E qui arriviamo a un altro punto: la politica non ha troppo gradito l'insistenza dell'autorità sull'incam del gas, ma dall'altra, di fronte alla propria sovranità nel disporre incentivi confusi e sovrapposti, e anche lì molto restio il politico a darla invece all'autorità del settore, che potrebbe averne un coordinamento indipendente molto più efficace e meno contraddittorio, e soprattutto siete voi poi a pagare l'effetto di questo a caso. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando dell'energia, stiamo parlando del mercato dell'elettricità e del gas nel nostro paese alla luce delle indicazioni date dalla relazione annuale dell'autorità di settore. Abbiamo con noi il presidente Alessandro Ortis, oltre a Carlo Stagnaro, e abbiamo ricordato come, insomma, a fronte di un differenziale più o meno del 25% al netto delle imposte, che sono anche quelle pesanti poi nelle vostre bollette, del prezzo dell'energia in Italia ai consumatori, però in realtà c'è una metà che è imputabile, poco più della metà, ai mix delle fonti di produzione che noi abbiamo, con troppo gas rispetto agli altri paesi, ma il resto poi è dato da oneri di sistema, e abbiamo tentato di farvi capire a casa come in questo ci sarebbe da guadagnare dandone la regia all'autorità indipendente invece che ai provvedimenti legislativi che di volta in volta ne cambiano una disciplina un pochino troppo complicata, contraddittoria. Sentiamo qualche telefonata e poi passiamo ai nuovi ospiti che arrivano. Riccardo da Parma. Riccardo, prego, che esperienza lei ha dei mercati liberalizzati dell'energia nel nostro paese? Sì, buongiorno. Dunque, io sono nel mercato libero da utente finale da circa 3 anni e mezzo. Per quel che riguarda l'elettricità, tutto a posto. Per quel che riguarda il gas, è una mezza odissea, nel senso che io ho sentito le prime offerte nell'aprile 2006, ho telefonato al numero verde di Eni chiedendo informazioni e volendo aderire al contratto. Per l'adesione al contratto ci ho messo circa 8 mesi, continuando io a telefonare e insistere, e vabbè. Dopo circa un anno e mezzo, in cui non ricevevo mai nessuna bolletta, mi sono dovuto iscrivere a un'associazione consumatori per riuscire a fare un po' di pressione su Eni che mi mandasse una bolletta per non ritrovarmi dei migliaia di euro tutti di un colpo. Alla fine mi sono stufato e ho cambiato. Sono passato ad Enel, un'offerta online, ho accettato, ho firmato il contratto, tutto a posto, la prima bolletta, mi accorgo che l'offerta che io ho sottoscritto non è quella che ha contratto. Allora telefono, mi viene spiegato che non è quella semplicemente perché il mio indirizzo non era aggiunto da quell'offerta. A quel punto ho cambiato ancora, adesso sono un terzo gestore, continuo a fare nomi, non so perché non vorrei, e col quale mi trovo, insomma, decentemente bene. Cioè, questo per indicare che fondamentalmente la mia sensazione è che l'utente finale sia considerato praticamente zero. E comunque vede che la differenza che lei ci racconta è quella anche emersa puntualmente tra elettricità e gas nella nostra trasmissione, nella relazione dell'autorità. Quinto da Pesaro invece, Quinto da Pesaro, che esperienza ha avuto con la liberalizzazione dei mercati energetici italiani? Buongiorno dottor Giannino, ai suoi ospiti e agli ascoltatori, grazie innanzitutto. Beh, la mia esperienza diciamo che riguarda solo l'energia, perché per quello che riguarda l'altra parte dell'energia usufruisco delle biomasse. Io da 3 anni questo sto passando al terzo gestore. Ma lei parla di elettricità o gas? Elettricità. In quanto il primo gestore che mi aveva fatto l'offerta eccetera aveva pattuito un tot costo a kilowattora per un contratto di 2 anni. È preciso che nel periodo in cui io ho fatto il contratto il petrolio viaggiava intorno ai $140 e sappiamo benissimo che l'anno scorso poi il petrolio è arrivato anche a 40. Mi faccio sentire dal gestore, mi dico: guardate che voi dovete fare il contratto così, perché mi continuate a praticare la stessa tariffa? Ma lei ha firmato un contratto biennale, fino alla scadenza del contratto non se ne parla. Arriva la scadenza del contratto, il gestore mi avvisa che il mio contratto è in scadenza, se io vorrò continuare a usufruire del servizio mi verranno incrementati 3 millesimi a kilowattore. Allora io contatto gli domi, dico: guardate, è impossibile, il gestore dice che dell'autorità che l'energia è calata, voi me l'aumentate, guardi, questa è la nostra tariffa, di conseguenza io mi sono trovato un altro gestore, ancora mi deve arrivare la prima bolletta, non so quale sarà. Ma e quindi verificherà l'effetto. Esatto, devo dire che il meccanismo è un po' complicato. Questo, guardi, ce lo dicono tutti e credo che il presente lo sappia, però per questo abbiamo messo anche un po' di voci, perché la riproposizione di chi concretamente cambia gestore e ci sbatte la testa è la maniera migliore poi per capire come dal vostro punto di vista sì, le determinanti e gli asset concorrenziali dei mercati all'ingrosso va bene, sono cose per addetti ai lavori tecnici fondamentali, però a casa se poi i risultati non si vedono. Sentiamo ancora una terza telefonata. Giovanni dalla provincia di Vicenza, lei che esperienza ha invece? Guardi, la mia esperienza, intanto buongiorno, la mia esperienza è quanto mai assurda e incredibile. È da un anno, il 14 di agosto, ho chiesto di fare un subentro ad Enel Gas a un altro utente. Ad oggi io non sono ancora riuscito a fare il contratto con Enel, quindi non ho la possibilità di cambiare gestore, cosa che nelle mie intenzioni, visto come... Non è riuscito perché? Perché il precedente utente ha lasciato una morosità di ben 20 euro e in un anno l'ufficio recupero crediti di Enel non è riuscito a recuperare o ammortizzare, mettere nelle perdite aziendali, 20 euro. Quindi io a oggi sono ancora senza gas. Beh, quindi questo credo che abbia più gas a che vedere con le solite pachidermiche inefficienze delle impostazioni burocratiche italiane più che in realtà con le determinanti dei mercati energetici italiani, però anche questo naturalmente fa la differenza, perché quando si hanno norme di questo tipo, iter procedurali di questo tipo, poi in effetti la concorrenza imporrebbe che si veda nel più breve termine possibile l'effetto. Allora, si è aggiunto tra i nostri ospiti Federico Testa, che è responsabile energia del PD, insegna economia e gestione delle imprese all'Università di Verona. Buongiorno onorevole Testa. Buongiorno a lei, grazie. Allora, non le chiedo cosa pensa dell'indipendenza dell'autorità, non le chiedo, le dico solo questo: siccome naturalmente responsabilità dell'opposizione in Parlamento non sono paragonabili con quelle di chi attraverso il governo e la maggioranza in Parlamento può dare risposte o non risposte ai problemi posti dall'autorità. Detto questo, però, se dovesse dirci nell'ambito di questa legislatura e nell'ambito di questi rapporti politici con questa maggioranza e questo governo, vede la possibilità di sviluppi in questo 2010 sui temi di cui stiamo parlando oppure no? Ma guardi, nell'ambito dell'attività della Commissione attività produttive della Camera, che è quella che si occupa di queste cose, devo dire esiste un rapporto molto direi buono, insomma, tra le forze politiche, perché tentiamo di andare nel merito dei problemi lasciando un po' fuori dalla porta le discussioni più ideologiche. Abbiamo assunto vari provvedimenti sempre votando insieme, quindi abbiamo la fortuna di avere un sottosegretario all'energia che è una persona seria e stimata. Stefano Saglia. Che è Stefano Saglia, e quindi direi che esistono le condizioni, diciamo nel particolare, nello specifico. Chiaro che poi sono influenzate da una situazione politica più generale. Però dovesse dirci nella pipeline di quello che può arrivare dal Parlamento tra quest'anno e il prossimo anno, in una prospettiva di convergenza rispetto ai maggiori problemi che abbiamo toccato, che cosa può venire fuori dal Parlamento? Noi abbiamo... c'è il tema della liberalizzazione del mercato del gas. Noi abbiamo dato un parere 10 giorni fa su un decreto legislativo importante che riguarda l'apertura degli stoccaggi, che è uno dei temi citato anche dal Presidente Ortis nella sua relazione ieri, che crediamo possa dare un contributo importante per far sì che i passi avanti che sono stati fatti in energia elettrica si facciano un po' anche nel gas. Naturalmente dipenderà da come il governo sarà disponibile a recepire il parere che abbiamo dato, però insomma sul gas stiamo andando avanti. C'è questo tema delle separazioni proprietarie che non è così indifferente, se come prima facendo una battuta lei diceva, se posso dirle, perché vede nel gas gli switch sono difficili, non solo i passaggi da un fornitore all'altro, non solo perché come i precedenti gestori fanno tutte le resistenze di cui abbiamo sentito adesso e quindi si frappongono ostacoli e quant'altro, ma anche perché se tutti comprano la materia prima dallo stesso fornitore, certo, non possono usare la leva prezzo per farsi concorrenza. E allora capisce che se da lei vengono e le dicono vabbè cambia fornitore e se va bene risparmi 12 euro all'anno, forse uno non il fornitore non lo cambia, quindi la variabile prezzo che consegue alla possibilità di liberalizzazione non può essere utilizzata e quindi insomma si finisce che il mercato resta meno concorrente. No, io ho solo dubbi che mettendo la cassa depositi e prestiti cambi qualcosa, perché non mi risulta chiaro. Eccoci tornati in studio, energia, abbiamo con noi il presidente dell'autorità di settore, abbiamo Carlo Stagnaro e l'onorevole Federico Testa. Stagnaro, molti dei nostri ascoltatori mi chiedono di sottolineare come l'apertura al mercato elettrico maggiore rispetto a quella del gas è anche effetto del fatto che il centro-sinistra anni fa con Bersani fu lui a dare le direttive per nel mercato per esempio della generazione elettrica, l'incumbent pubblico, ex pubblico, l'Enel, l'ex incumbent, si aprisse alla concorrenza, venissero ceduti larghi pezzi della capacità di generazione a concorrenti. Mentre invece, dicono gli ascoltatori, è il centrodestra che sul gas poi non fa la stessa cosa. Però da un punto di vista comparato, molti sostengono che la decisione allora di Bersani, del centrosinistra, quella di assumere il mercato rilevante a fini concorrenziali, quello nazionale, ebbe l'effetto forse di indebolire sin troppo l'Enel, che poi si è internazionalizzato solo adesso, solo negli anni successivi. Questa critica è una critica che ha un fondamento, cioè è vero che se si fa concorrenza a livello nazionale si indeboliscono i campioni nella proiezione internazionale, oppure è una scusa adesso pensarla così perché gli stati non vogliono più cedere niente, perché nella curva del mondo in cui siamo gli stati non hanno più bisogno di privatizzare, liberalizzare, dicono facciamo tutto noi. Lei come la pensa? Io credo che l'albero vada giudicato dai frutti e il frutto che abbiamo oggi davanti è quello di un Enel complessivamente non solo più forte, nel senso che è diventata un'azienda internazionalizzata che opera in diversi paesi, in un gran numero di paesi in tutto il mondo e che è forte non solo in Italia ma anche per esempio in Spagna e in diverse nazioni dell'est europeo, ma abbiamo davanti anche un Enel che è qualcosa di completamente diverso rispetto all'Enel pre-privatizzazione. Sono, come dire, due realtà incommensurabili. E poi c'è un altro aspetto che secondo me è ancora più rilevante. L'obiettivo politico, quello che possiamo definire un po' convenzionalmente interesse generale, non è avere l'Enel forte o l'azienda X forte, è avere un sistema energetico efficiente che consenta ai consumatori di pagare bollette più razionali e al tessuto economico di disporre di un servizio efficiente e di competere sui mercati internazionali. L'effetto della liberalizzazione nel mercato elettrico, che evidentemente deve ancora fare dei passi, contiene ancora una serie di imperfezioni di cui ha parlato ieri anche il presidente Ortis, ma nonostante tutto l'effetto della liberalizzazione del mercato elettrico è stato di offrire un servizio migliore ai consumatori, di rendere le nostre imprese, specie quelle più energivore, relativamente più competitive di quanto non sarebbero state in caso contrario. Onorevole Testa, il presidente Ortis, a cui poi diamo la parola per le conclusioni, ieri ha sottolineato come con tutti questi incentivi, lo abbiamo detto, alle rinnovabili, c'è un rischio che le bollette aumentino del 20% di qua a 10 anni, e ha proposto di traslare almeno una parte dalla bolletta alla fiscalità generale. È una prospettiva che la convince? Io dico subito che la mia opinione è che bisognerebbe essere franchi e dire che stiamo sbagliando. Troppi incentivi, cioè io non li vorrei né in bolletta né in fiscalità generale, ma sono come sempre un oltranzista. Lei che pensa invece? Guardi, io sono un po' oltranzista come lei, nel senso che penso che il tema delle rinnovabili sia fondamentale, però se si usa male la leva degli incentivi, e se come nel nostro caso si hanno gli incentivi più alti al mondo, non solo si alimenta tutta una partita che è esclusivamente finanziaria e che non ha niente di economico, ma poi si finisce. Io non voglio fare il demagogo, però si alimentano anche poi le cose dell'eolico di sì, cui leggiamo. No, ecco, infatti, c'è la parte della finanza dove oramai il driver è solo finanziario e la produzione di energia, se c'è, è residuale, e questo si porta dietro anche tutte queste cose a cui accennava lei. E poi si finisce spesso anche per alimentare una produzione che non ha una sostenibilità economica intrinseca di fondo, esatto. Cioè che alla fin fine, cioè, le dico insomma, una banalità, una pala eolica deve girare 2000-2200 ore all'anno, se arriviamo a 1800 forse ha un senso, se arriviamo a 1200 quella lì non è una pala, non è un impianto energetico, è un debito, esatto, finanziato in questo momento con i soldi delle bollette dei cittadini e che poi sul quale tra 10 anni forse ci toccherà fare una forma di chip 7, chip 8, chip 9, cioè un qualche cosa per far rientrare questi che hanno fatto gli investimenti in una cosa che non invece. Quindi bene la proposta dell'autorità che dice, vabbè, se è possibile teniamo conto che questo è uno scenario per il paese e quindi mettiamolo in fiscalità generale o almeno una parte, oppure date all'autorità che ha le competenze tecniche per fare le bollette la possibilità di definiti dalla sì, politica le linee generali di decidere come si fa questa cosa, farle almeno ragionevole ed equilibrati, va bene, se no viene fuori un disastro. Grazie, non lo testa. Allora, conclusioni al presidente Orti. Sì, ho una domanda alle 100 pistole a cui immagino la risposta, ma gliela devo chiedere per forza: come mai lei non abbia ieri parlato di nucleare, malgrado tutto quello che il governo ha messo in cantiere, stiamo aspettando l'agenzia di sicurezza nucleare senza la quale non si va avanti e così via. Però la domanda è una domanda su questo, però in realtà la domanda che ho è, guardando in prospettiva dopo questi 7 anni, lei pensa di aver davvero esercitato la funzione che ha esercitato, ma soprattutto se dovesse dare un'indicazione su quello che si può fare traendo lezione anche dalle asperità del dibattito che lei ha saputo animare, e la politica rispetto a 7 anni fa le è sembrata un pochino più restia per motivi giustificabili, o c'è qualche cosa che ci sfugge del perché sembrano le autorità indipendenti oggi rompere più le scatole di quanto invece la politica non fosse più pronta, secondo me, 7 anni fa a dare retta loro? Rispondo subito, mi consenta solo velocemente su due punti che sono stati trattati perché è importante, che non vorrei che gli ascoltatori percepissero, per esempio, ostacoli allo sviluppo delle rinnovabili. L'ambizione, l'obiettivo di avere una quota significativa e crescente di rinnovabili è un obiettivo buono, e proprio perché è buono, e proprio anche perché è ambizioso, Ebbene, che questo obiettivo sia raggiunto col massimo di equità, ecco la proposta della fiscalità, o col massimo dell'efficienza, e comunque col massimo dell'efficienza. Per esempio, come si sta gestendo il sistema dei certificati bianchi, che sono degli incentivi per il risparmio energetico. Questo è proprio un caso nel quale il governo e il Parlamento hanno stabilito i target, gli obiettivi quantitativi, e la gestione tariffaria è affidata all'autorità. E se non si vuole, invece, affidarla, come dicevamo prima, all'equità fiscale, perché ricordiamoci che questi incentivi, quando sono in bolletta, sono proporzionali al consumo, e quindi può venirne fuori che una famiglia numerosa e proprio non in grande... È un effetto regressivo, insomma. È un effetto regressivo. La seconda questione che mi sta a cuore, ho sentito i suoi ascoltatori e a questi noi dobbiamo rispondere: i casi che loro hanno rappresentato hanno dei profili patologici, e quindi per cortesia chiamate pure l'800 166 654, che è lo sportello del consumatore, che è a disposizione per rispondere ai casi e ai problemi che sono stati avanzati, perché un subentro ritardato per morosità di chi è uscito non può essere, e ricordiamoci che il consumatore ha un potere formidabile, quello di cambiare in fondo quando vuole, perché il diritto di recesso per il consumatore è 30 giorni. Per le aziende invece, giustamente, asimmetricamente, sei mesi. Quindi questo è importante. Per quanto riguarda il nucleare, l'autorità, io lo dico spesso, non fa politica energetica. Le scelte sul sì, sul no, sul come, sul dove, per le varie sorgenti, abbiamo detto anche quelle rinnovabili adesso e nucleare, spetta al Parlamento e al Governo. Noi, per facilitare comunque qualsiasi progetto ambizioso, anche di rinnovabili molto avanzate dal punto di vista tecnologico, o carbone super pulito o quant'altro, nucleare eccetera, abbiamo comunque immaginato che ci sia nella borsa dell'elettricità un tipo di prodotto, contratti lungo termine, che consentano anche agli operatori che debbano investire in progetti ad alta intensità di capitale come e a lungo ritorno. Certo. Ecco, noi guardiamo alla situazione di mercato. Infine, riguardo alla nostra attività, è evidente che uno guarda i 7 anni che ha fatto, cercando di fare una sintesi dei passi avanti, e passi avanti sono stati fatti. Allora, ma la liberalizzazione continua, l'evoluzione del mercato continua, e ci sarà lavoro anche per i nostri successori, non c'è dubbio, perché i consumatori, viva Dio, hanno cominciato a capire che si può essere esigenti, e se uno segue le giuste esigenze dei consumatori, ogni giorno ha qualcosa da mettere a posto. Io ringrazio il presidente Alessandro Ortis, credo e spero anch'io che i consumatori si facciano prendere dalla voglia di chiedere gli effetti della concorrenza, senza, denunciando con intransigenza e durezza all'autorità tanti episodi come quelli che oggi avete sentito con le loro telefonate. Ringrazio Carlo Segnaro e l'onorevole Federico Testa. Mi dispiace perché il sottosegretario Saglia doveva essere a pieno titolo con noi tutta l'ora, e purtroppo impegni gliel'hanno impedito. Non pensate male dunque, perché qui siamo tifosi anche del sottosegretario Saglia, che gode dell'universo e del sostegno, come avete sentito, perché è una persona seria che si occupa di energia. Altri politici no, ma lui di sicuro sì. Questa è la mia opinione. Grazie a tutti, appuntamento a lunedì.